the buildings have a volume of 1 million cubic meters. 20 gru su una superficie di 5 ettari, dove 3.200 operai stanno costruendo una struttura da 1 milione di metri cubi. Siamo ad Olkiluoto, dove già da 30 anni sono operativi due reattori che producono il 16% dell'elettricità finlandese e che si sommano alle altre due centrali di Loviisa. Qui ad Olkiluoto, sulla costa ovest della Finlandia, si sta costruendo un terzo impianto da 1.600 MW che dovrebbe portare la fornitura di energia nucleare al 35%. Il reattore che si staglia davanti a noi è già alto 30 metri, nel 2011 dovrebbe raggiungere quota 63 metri e diventare il primo impianto di terza generazione in grado di tagliare 11 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno. Il progetto di proprietà del consorzio privato TVO è partito nel 98 e prevedeva 11 anni di lavoro al costo di 3 miliardi di euro. La cifra, lievitata a quasi il doppio, sarà compensata dalle società costruttrici Areva e Siemens. L'opera sta avendo 2 anni di ritardi, ma, ci dice il project manager Martin Lantman, diventerà alla fine l'impianto nucleare più avanzato del mondo. Un modello di sicurezza ed efficienza che dovrebbe ispirare gli altri paesi europei ad aggiungere il nucleare al loro mix energetico per il futuro. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Olkiluoto.